Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Queste ore fa notizia lo scambio di insulti pesantissimi tra la deputata del PD Alessandra Moretti e la senatrice grillina Paola Taverna. Loro sostengono che si tratta di tweet falsi, che denunciano che i loro account sono stati hackerati e si preparano a fare a sporgere denuncia. Vi chiediamo quindi di dirci che cosa ne pensate di questa volgarità che dilaga anche sui social network. Un hacker si è appropriato del mio profilo Twitter e ha inviato tutta una serie di messaggi di contenuto osceno che ovviamente ho provveduto immediatamente a denunciare alla polizia postale. Oggi in apparenza parliamo di una non notizia, ma siccome ha occupato pagine intere dei più importanti quotidiani italiani e siccome ci dà uno spunto di riflessione per tornare su temi che a noi stanno molto cari, come la necessaria differenza che occorre fare rispetto ad alcuni principi come quello della privatezza, come quello dell'espressione del pensiero, come quello del confronto fra esseri umani, tra mondo concreto e mondo digitale, ci torniamo. Vi riassumo in pratica la notizia. Una parlamentare PD, l'onorevole Alessandra Moretti, ha scritto una lettera aperta al Corriere della Sera dal titolo «Mostrare i volti di chi insulta sul web». Era reduce da una brutta storia, brutta ma naturalmente ci sta nell'ordine delle cose, se non si espone attraverso un profilo Twitter, che lei assieme alla sua collega Paola Taverna del Movimento 5 Stelle si sono scambiati dei tweet molto accesi che destavano sospetto per la loro matrice prettamente maschilisca, volgare, cialtrona, che sembrava molto difficile che due onorevoli, per quanto si acceso ormai il dibattito politico, si scambiassero degli insulti che ma nemmeno nei retrocessi delle caserme dei car avanzati in Friuli 20 anni fa con esseri che venivano dalle montagne, avevano tutta la vita pascolato pecore, sarebbe venuto fuori qualcosa di simile. Qualcuno si era introdotto nei loro profili Twitter, che non erano sicuramente ben salvaguardati da password abbastanza intelligenti, o perlomeno qualcuno comunque è entrato nei loro account Twitter e si è impossessato delle loro identità e ha fatto questa cosa che comunque ha destato molto scalpore, ha fatto parlare. Quindi l'onorevole Moretti scrive al Corriere della Sera e dice in sintesi questo, dice: ma mentre siamo molto salvaguardati dall'insulto, dalla diffamazione a mezzo stampa o effettuata da persone riconoscibili, nel social media c'è il grande anonimato, non si sa chi colpisca, e quindi come si fa a ribadire questa sorta di diffuso sentimento maschilista che noi donne dobbiamo modificare, rettificare con la nostra presenza salvifica, vivificante e via dicendo, se non facendo un'altra legge. Quindi ha detto: io assieme a Francesco Sanna, che è mio collega di partito, e altri onorevoli del PD, stiamo preparando un disegno di legge che, e non si sa bene, uno dei tanti disegni di legge che dovrebbe dare possibilità di certificare, di capire, di organizzare, di vedere le facce delle persone che twittano. Beh, io su questo voglio ragionare questa mattina. Ce n'è proprio la necessità? Se ne sente proprio il bisogno? È questa la via di uscita? È questa la maniera che risolve il problema? Ci si accorge di questo soltanto quando vengono toccate le integerrime intangibili onorevoli che sì, si mettono in gioco su Twitter, ma quando poi devono stare alle regole di Twitter, che ci sta anche, che noi ci confrontiamo con l'umanità senza filtro, con l'umanità mettendoci sullo stesso piano, l'umanità è fatta anche di cialtroni, di volgari, di animali e di bestie, non è che poi possiamo piangerci addosso e dire vogliamo la legge e chiamiamo i carabinieri. Cosa ne pensa l'avvocato Giuseppe Vaciago? Vaciago, buongiorno. Buongiorno. Ricordo che Giuseppe Vaciago è un avvocato che si occupa di questa materia da tanto tempo, oggi è partner dello studio Rep Legal, poi dimmi se l'ho pronunciato bene, esperto in diritto penale e nuove tecnologie, fa parte del collegio difensivo di Google nel processo che ha fatto disciplina, ha fatto storia, di cui parleremo, Google VV Down. Innanzitutto di questa cosa che io ho in maniera colorita esposto, qual è il tuo punto di vista? Ma lo esprimo in maniera molto semplice, innanzitutto ciao Gianluca. Credo che si investa, purtroppo sono un po' impreparato perché mi hai colto di sorpresa con quest'ultima prima affermazione, ma credo che si investa. Ma hanno già detto, sai, hanno già detto che era una provocazione, poi non si sa se la faranno veramente la legge, però ma il tema è vecchio. Dico un'altra cosa, credo che si investa tantissimo sulla sicurezza delle persone fisiche nel caso in cui appunto ci troviamo di fronte a parlamentari, a senatori, e quindi noi abbiamo guardie del corpo, ci sono state anche polemiche sul tema in alcuni casi, perché poi questo tipo di diciamo sicurezza, che è più che mai legittima, viene poi magari protratta nel tempo anche quando poi non c'è più sostanzialmente l'esigenza di questo tipo di tutela. E poi l'altro giorno abbiamo fatto una trasmissione sui droni, abbiamo capito, mi ha confermato un costruttore di droni, che io potrei da qui con il mio telefonino mandare un drone sopra al Quirinale, sganciare una bomba, e in teoria nessuno se ne accorgerebbe. Ecco, questo è un altro tema importante. Ecco, io mi chiedo, ma perché non si investe prima di fare una legge un pochino sulla sicurezza invece della propria identità digitale? Perché in Italia continuiamo in qualche modo, mi permetto di dire, a essere arretrati e a pensare che per risolvere un problema come questo, che è un banale hackeraggio di un account Twitter, dobbiamo fare una legge, oltretutto su temi differenti. E bisogna tutelare il proprio profilo, esattamente come io non tengo la porta di casa aperta, devo fare in modo che il mio profilo Twitter non sia hackerabile, e ci sono sistemi, protezioni, società di servizi che garantiscono questo tipo di affidabilità. È chiaro che se io sono l'utente qualunque, magari è meno probabile che hackerino il mio profilo Twitter, se io sono un parlamentare il rischio è elevato, e quindi come lo Stato investe, e direi sicuramente molto di più, la spesa soprattutto sulla tutela di un profilo Twitter, vi garantisco un'esperienza personale minima. Quindi prima di parlare di leggi inizierei a dire i parlamentari si tutelino dal punto di vista di sicurezza informatica, che mi sembra una cosa fondamentale e basilare quando si parla di questi temi. Tutte le volte parliamo di sicurezza informatica, tralasciamo sempre la seconda parte del problema, che mi sembra anche la più spinosa, è la sicurezza sugli individui, sulle persone, sugli staff. Sembra che improvvisamente personaggi pubblici abbiano scoperto la frenesia e il fantastico modo di entrare immediatamente nei circuiti dell'informazione o del resoconto o della dichiarazione attraverso gli strumenti individuali, social networking. Ma non sempre tutti sono proprio loro a twittare, molte volte sono gli staff, sono gli uffici stampa, sono le persone del contorno, sono i portaborse. Insomma, molte volte c'è anche una esagerata confidenza nella tenuta degli esseri umani di mantenere segreta una password, e molte volte le password una persona se le scrive sul post-it che tiene attaccato al computer in ufficio. Sì, basta pensare al caso Prism, Snowden è negli Stati Uniti, il caso che ha generato sostanzialmente polemiche enormi da giugno ad oggi. Snowden ha ottenuto le password della più importante, dell'NSA, cioè della National Security Agency americana, come facendo un colpo di telefono ai suoi colleghi dicendo: scusa, non è che mi puoi dare la password? E questi, banalmente, essendo gli uomini della sicurezza, hanno detto: sì, non ti preoccupare, ti do la password. E qui è una cultura che va cambiata, prima di tutto. Bisogna imparare a tutelare la propria identità digitale anche sotto questo profilo, e sono curioso di capire se lo staff, magari adesso verrò smentito, ha investito adeguatamente in sicurezza oltre che in comunicazione, perché chiaramente la comunicazione senza ombra di dubbi c'è, perché ci sono tante società che si occupano anche di gestire questi profili, ma devono anche preoccuparsi di garantirne la sicurezza di questi profili, soprattutto se possono succedere cose gravi come quello che è accaduto appunto alla parlamentare Moretti. Ecco, il passo successivo sarà, Giuseppe Vaciago, che qualcuno dirà, come è già accaduto in passato, l'hanno fatto illustri telegiornalisti e via dicendo, ma allora la colpa è di Twitter. E quindi improvvisamente, se nella ricerca di una responsabilità, nella non capacità di essere adeguati poi allo strumento che si usa, la colpa diventa dell'ente, dell'azienda, della società che in realtà fornisce il servizio. Un po' quello che accadde al tempo quando ci fu il caso di cui abbiamo accennato, Google Vivi Down. Sì, tendenzialmente la responsabilizzazione del provider, in qualche modo confondendolo con l'editore, quindi con la legge sulla stampa, è una tendenza tutta italiana che ha una storia particolare su, per esempio, temi come la diffamazione o altri reati d'opinione. Quindi è normale che appunto ci possano essere situazioni di questo tipo. Faccio brevissimo excursus per chi non conoscesse il caso Vivi Down: quattro ragazzi di una scuola, di un istituto tecnico di Torino, hanno uploadato il video di un povero disabile che veniva schernito da questi ragazzi, e invece di punire, anzi, sono stati puniti e sanzionati penalmente i ragazzi, ma si è generato un processo contro il servizio Google Video, che è l'attuale YouTube, perché non avrebbe in qualche modo controllato quel video, senza considerare il volume enorme di video, l'impossibilità del controllo e il banale fatto che c'è una legge precisa che proviene da una direttiva comunitaria che dice esattamente l'opposto, che c'è un'assenza generale dell'obbligo di sorveglianza, quindi non si deve sorvegliare. E perché non si deve sorvegliare? Perché io comprendo perfettamente il tema dei provider e che c'è un sentimento collettivo che dice: certo, però se i provider filtrassero, in qualche modo tutelassero l'utente, certi tipi di termini scurrili, certi insulti, e lo capisco, ma bisogna sempre vedere l'altro lato della medaglia e la libertà di espressione, i suoi valori fondamentali. E non foderebbe un servizio che io immediatamente posso uploadare un mio video dal mio smartphone in questo momento, se ci fosse questa catena di controllo, ammesso che fosse economicamente gestibile da un provider avere anche un controllo così capillare su ogni video messo, non avrei la velocità e la gratuità di questo servizio. E sinceramente sono più contento se, ahimè, con dei tempi più lunghi, sia un giudice italiano, la cultura italiana, a decidere se un contenuto è illecito, piuttosto che un provider statunitense o italiano che sia, che magari non ha la cultura legale, perché a quel punto si porrebbe il problema di chi poi deve decidere l'illegalità di quel determinato. Ecco, com'è finita la vicenda Google che aveva fatto scuola? La vicenda Google, che poi si è sviluppata su un tema di diffamazione, che poi è scivolato su un argomento di privacy, però non voglio tediare perché sono tutte tematiche, diciamo, più di natura tecnico-giuridica, però fortunatamente è finita con un appello che ha rigettato la sentenza di primo grado, che appunto aveva condannato la società, e questo aveva fatto molto scalpore. L'appello già appunto aveva assolto invece la società, e la Cassazione proprio alcuni giorni fa, con una demotivazione molto interessante e molto corretta, ha confermato questa decisione, e devo dire che sono contento perché si allinea, indipendentemente dalla questione ovviamente di parte, questo non lo posso negare, ma si allinea a quello che invece poi è la giurisprudenza comunitaria sull'argomento in tema di responsabilità del provider. Sì, perché noi avevamo un po' questo primato in Italia di avere nei confronti, diciamo, del mondo digitale un atteggiamento ancora molto antiquato, molto arretrato. Ho il telefono Stefano, che però intuisco che sia Stefano Quintarelli, che è un collega, un amico, una persona di questa materia se ne interessa. Stefano, buongiorno. Buongiorno a te Gianluca, sì, confermo, sono io. Sì, dimmi, accenna la tua domanda, poi mandiamo il traffico. No, non era una mia, sì. Non era una domanda, era un'affermazione. Intanto devo dire che quello che ha detto l'avvocato Vacciago è musica per le mie orecchie, e sentire un avvocato parlare di sicurezza informatica è veramente una cosa bellissima. Nel senso, io volevo intervenire e dire semplicemente che bisogna smetterla di considerare che rete tutti i comportamenti sono leciti, che sia un far web, come lo chiamava il presidente Calabrò, e che non ci siano le norme, non ci siano le leggi. Le leggi ci sono e vengono applicate, anche molto tempestivamente. Bisogna smetterla di pensare che le persone, tutto quello che fanno in rete, sia irrintracciabile e che non siano individuabili chi commette reati, chi commette delitti. Allora anche Stefano, fermati un secondo, non ti seguo, nel senso, aspetti solo 10 secondi in linea, perché mandiamo le informazioni del traffico, così dopo abbiamo modo con te, con l'avvocato Vacciago, di entrare in merito a questa vicenda, che è quella più legata alla cronaca dei parlamentari che improvvisamente si sentono indifesi, non gli bastano le scorte, non gli basta la polizia postale sempre pronta dietro la porta ad aiutarli nei loro problemi, ma vogliono ancora leggi per poter giocare con Twitter senza correre il rischio poi che le altre persone li prendano un pochino in giro. Melog, cronache meridiane. Il tema è proprio questo: la differenza fra mondo concreto e mondo digitale. Nei 10 secondi che voi avete seguito le informazioni del traffico, io mi sono accapigliato con Fabrizio Intonti e con il prode Valerio Rocchetti, che stanno dall'altra parte del vetro, e loro sostengono, dice: ma come, io non devo essere obbligato a denunciare una persona se mi insulta, ma devo avere modo che questa persona necessariamente debba esprimersi con la sua faccia, con il suo volto, perché se no non va bene. Io sostengo invece che la novità e la differenza del mondo digitale, che io posso anche esprimermi sotto anonimato, deve essere la rete che autoregolamenta la mia civiltà nell'esprimermi, e rimane il fatto che comunque qualunque cosa io faccia a rete lascia una traccia. È difficilissimo, dovrei essere un genio dell'informatica per non lasciare nessuna traccia o per rendermi irrintracciabile. Simone, buongiorno. Buongiorno a te Gianluca. Come la pensi? Ma io la penso innanzitutto sotto una prospettiva tecnica, ecco, volevo sapere, io sono un sistemista da tanti anni, quindi conosco il web mi dà da mangiare, quindi lungi da me dal denigrare il mezzo. Però quello che è come denigrare la corrente elettrica e l'acqua corrente, cioè. Esatto, sappiamo bene che un coltello serve per spalmare il burro, ma può uccidere anche una persona. Anche il burro serve per imburare il pane e per fare tante cose, ogni oggetto ha varie destinazioni. Esatto, la pensiamo allo stesso modo. No, quello che volevo dire è che questi accadimenti, questi fatti dovrebbero far riflettere soprattutto a quanti osannano il web, e ultimamente ne abbiamo avuto sui giornali, no, tanti bei titoloni, come strumento di democrazia, quando il web è uno strumento estremamente fragile, facilmente manipolabile, attaccabile, assolutamente insicuro, almeno allo stato attuale della tecnologia. Poi non è detto che la tecnologia stessa un domani ci porti ad avere la massima sicurezza e identificazione. Ecco, tu che sei un sistemista, scusa, puoi ribadire un concetto? Se io twitto sotto o entro nel tuo account di Twitter e mi prendo il tuo posto, sono facilmente rintracciabile? Comunque è molto difficile. Non è detto, perché proprio per la complessità dei percorsi e di una serie di specifiche particolari bisogna essere estremamente bravi a rintracciare, e siccome chi fa questo è anche bravo a nascondersi, diventa una gara a chi ne sa di più. Per cui poi, siccome la complessità, ripeto, è talmente vasta, è complessa anche la ricerca, per cui e costa anche un sacco di soldi, sì. Sì, per cui ecco, o si ha veramente la volontà e dei mezzi specifici per raggiungere appunto chi commette certi delitti, tra virgolette. Sì, poi vogliamo dircelo anche fra noi, diciamo la verità, i tweet sono stati poi screenshottati e pubblicati su tutti i giornali, su tutti i siti. Un Photoshop può fare altrettanto, sì. Cioè, voglio dire. Erano talmente ridicoli, sembravano le parolacce scritte in un gabinetto, che alla fine... non voglio dire che hanno portato visibilità alle protagoniste, che è brutto, ma una volta capito che non sono stato loro, era paradossale che non fossero state loro. Gianluca, ecco. Io credo che la prospettiva deve essere un altro, perdonami, e la finisco qui poi. Cioè, il vero problema è il rapporto provinciale che abbiamo, ecco, un certo provincialismo con un mezzo che tutti osanniamo ma che pochi conosciamo. Dovremmo prendere un pochino più coscienza che un mezzo è un mezzo, punto e basta, con i suoi difetti, le sue cose. Per cui accanirci contro internet senza sapere effettivamente cosa può significare un mezzo come questo, e prenderlo per i suoi difetti e comportarci di conseguenza. Quindi smettiamola di osannarlo come mezzo di democrazia, è un mezzo, punto e basta. Conosciamolo prima, cerchiamo di avere un rapporto un pochino più cosciente e fare molta più attenzione, perché molto spesso gli hacker siamo noi stessi. È come quello che diceva poco fa l'avvocato Vaciago, a proposito di quello che diceva l'ascoltatore Simone oggi sul giornale, c'è un pezzo di Gian Pietro Berti, in nome del web sovrano, ecco tutti gli inganni della democrazia digitale. È uno studio fatto dalla rivista Paradoxa proprio su questa utopia della democrazia in rete. Però mi sono quasi stancato, perché sono anni che di questo parliamo, e quindi Stefano Quintarelli, visto che sei entrato nella nostra trasmissione, ecco, come la pensi rispetto all'intervento di quest'ultimo ascoltatore? Il nostro provincialismo, che è tanto più palese, tanto più evidente quando viene espresso da posizioni di vertice o istituzionali nei confronti della cultura digitale. Ma io osservo spesso quello che accade in giro per il mondo, e scrivevo sul mio blog, adesso più che altro su Twitter, dei post che sono l'erba del vicino, per raccontare quello che accade. A noi sembra che succedano solo in Italia certe cose, certi comportamenti, certi atteggiamenti siano solo italiani. Beh, non è così, succede in tutto il mondo è paese, e in questa fase di transizione da un mondo fisico a un mondo digitale, i problemi sono gli stessi in tutto il mondo e le esagerazioni ci sono in tutto il mondo. Non abbiamo una leadership del provincialismo digitale? No, sicuramente non ce l'abbiamo, e devo dire che anzi, spesso forse noi abbiamo più di altri paesi una tendenza a dare risalto media ai nostri atti provinciali, quindi certe cose sui media in altri paesi durano molto. Da noi ancora è evidente il rimbalzo fra media tradizionali, giornali che ancora giudicano una notizia, un evento avvenuto in Twitter, dei tweet falsificati, due parlamentari diventano notizia alla prima pagina, si crea la querela. Io, io credo che ci sia una aspettativa eccessiva, una mitizzazione di quello che è internet, anche dicevi poco fa sul tema della partecipazione democratica, no? E si pensa che internet debba essere uno strumento perfetto, e internet è uno strumento imperfetto come tutta la società, come lo è la stampa, come lo è la televisione, come lo è qualunque strumento. E prima citavi i bagni, no? Le scritte sui bagni. Internet non è altro che uno strumento con tutti i suoi difetti, non dobbiamo avere aspettative eccessive, perché sennò se resteremo fatalmente delusi. Grazie Stefano. Abbiamo l'ascoltatore Giovanni, velocemente, poi voglio far rispondere all'avvocato Vaciago. Giovanni. Salve, buongiorno. Senta, niente, io a me qualche anno fa mi hanno truffato 750 euro dal mio conto online. Come mai? E io, nulla, qualcuno ha rubato queste password dal polposte.it. E lei dove l'aveva scritta la password? Io non l'avevo scritta, assolutamente scrivo le password, ce l'ho tutta in memoria. E io me ne sono accorto perché hanno preso proprio il fido di 750 euro, di cui c'era una ricarica del telefono, di cui c'era il numero di telefono, e una ricarica di postpay, di cui c'era una. Quindi non erano nemmeno tanto scaltri questi truffatori. Però non hanno potuto fare nulla. Perché? Anzi, mi hanno intimato di non chiamare quel numero di telefono perché mi potevano denunciare per minacce. E non è andata più a nulla avanti. Fermo là Giovanni, questa è materia di Giuseppe Vaciago. È una situazione di paradosso, però vediamo se mi riesce a far capire, visto che ancora il diritto nel campo del mondo digitale è così in via di continua sovrascrittura. Sì, sicuramente, innanzitutto mi dispiace moltissimo che sia successo questo episodio, e dispiace molto, e quando ti vanno poi a toccare, soprattutto c'è anche un aspetto psicologico che va considerato. Detto questo, è chiaro che abbiamo un problema, che sta risolvendosi nel tempo, anche di, chiamiamolo digital divide, delle forze di polizia. Si stanno giustamente anche loro creando degli ottimi pool dei reati informatici a Milano, a Roma, ma in tante altre città ci sono davvero dei bravissimi poliziotti. Purtroppo ci sono anche altri corpi di polizia, oppure anche sezioni di polizia giudiziaria, che fanno un po' fatica, è normale. E quindi quello che io mi immagino è, di fronte a un caso di phishing via OTP, questo mi verrebbe da analizzarlo così in due righe, mi sembra strano anche che non si potesse fare nulla, oltretutto avendo un numero di telefono, e altrettanto strano che sia stato detto, appunto, certamente non era opportuno chiamare il soggetto se ci fosse un numero di telefono, però la polizia giudiziaria... Diciamo che è passato qualche anno, forse in qualche anno, se 5-6 anni fa, poteva anche starci. Senti, nell'ultimo minuto, Giuseppe, mi dici qual è il nodo dal punto di vista giuridico che ti sembra più irrisolvibile, più difficile da superare in questo momento rispetto al diritto e al mondo digitale? Ma io credo che il nodo è quello che ha detto prima anche Stefano Quintarelli, le leggi ci sono, si possono applicare e possono essere molto più tempestive delle leggi che si applicano sulla realtà, chiamiamola fisica, quindi partiamo da questo primo principio. Secondo, il fatto che dobbiamo però avere, sia Stefano che anche poi l'intervento successivo che è stato fatto del sistemista, dico una cosa corretta: il web è uno strumento comunque non necessariamente perfetto, però il problema fondamentale è cercare di avere più consapevolezza dei rischi che il web porta da tutti i punti di vista, che sia security, che sia privacy. Cioè, se c'è il problema dei 750 euro, non voglio entrare nel merito, ma magari non ha lasciato le password scritte su un fogliettino, ma magari non aveva una... Non aveva tolto, diciamo, dal proxy. Grazie, arrivederci Vaciago, arrivederci Quintarelli, a domani.